Letture di Radio 24. Domenica scorsa la commissione toponomastica del comune di Cremona ha respinto la richiesta di intitolare una via a Oriana Fallaci con la motivazione che il nome e le opere della Fallaci sarebbero troppo divisive. In un paese in cui basta aver vinto la cuccagna per avere il nome su una via, non si può giustificare la bocciatura di una strada con la scusa tartufesca della figura che divide, commenta Gian Giacomo Schiavi sul Corriere della Sera. Ogni grande uomo o grande donna della storia è stato o è stata in qualche modo divisivo, schierato, di parte, con amici, nemici, ammiratori e detrattori. Per questo la decisione della Commissione toponomastica del Comune di Cremona, che nei giorni scorsi ha respinto la proposta, è ambigua e offensiva di una memoria che non deve essere strapazzata per un uso politico di parte. Ambigua e offensiva, come lo sono state in passato le motivazioni addotte dai vari consigli comunali, che hanno detto no ad altri nomi cosiddetti divisivi, da Camilla Cederna a Enzo Biagi, da Luigi Calabresi a Giuseppe Pinelli. Non c'è nessun obbligo per Cremona di avere una via, una piazza o un giardino dedicati a Oriana Fallaci. L'interessata, sempre diffidente verso gli elogi imprevisti, non è nemmeno sicuro che gradirebbe. Anzi, si può giurare che manderebbe al diavolo il sindaco o chi per lui della giunta di centro-sinistra, anche in caso di ripensamento. A brigante, brigante e mezzo, era il suo motto, coerentemente espresso con chi del potere faceva abuso, come Khomeini e Gheddafi, pagato con il rischio delle pallottole e con qualche cicatrice, come in Messico o in Vietnam, vissuto sulla sua pelle per essere andata controcorrente, come con l'integralismo islamico e il politically correct. Oriana Fallaci non merita banalizzazioni, come non lo meritavano gli altri personaggi osteggiati in passato dall'incapacità della politica di sottrarsi alle logiche di parte. Se sei stato con me, bene. In caso contrario, niente. Ha fatto così persino Firenze. Nessuna strada per Oriana. Eppure, era la sua città. I mugugni nella maggioranza, che è la stessa del Premier, hanno suggerito di lanciare la palla in tribuna per prendere tempo, con la stessa ambigua motivazione della commissione toponomastica di Cremona. Primo, la Fallaci è una figura che divide. Secondo, non sono ancora passati i 10 anni previsti per l'intitolazione. Giuseppe Vigliatta, il promotore della petizione di Cremona con 130 firme, non si rassegna. Mi dicono che Oriana non è del posto e non ci sono vie idonee. Mi sembrano scuse ridicole. L'assessore di SEL, Rosita Viola, risponde: stiamo parlando di un nome che ha fatto molto discutere. Il leader della Lega, Matteo Salvini, va giù pesante. Ignoranti, non la meritano. Ma ci deve essere qualcosa di più. Qualche anno fa Vigliatta aveva fatto la stessa richiesta alla giunta di centrodestra. Niente da fare. Fallaci, no grazie. A questo punto, meglio lasciar perdere. Se Oriana Fallaci, dopo la rabbia e l'orgoglio e la preveggenza sul fanatismo islamico, è politicamente ingombrante, lo si dica. E basta. Per noi era grande, grande, grande, come il titolo di una canzone di Mina, Cremonese Doc. Fosse un calciatore, bisognerebbe ritirare la maglia. Per manifesta assenza di coraggio. E questo era l'articolo di Gian Giacomo Schiavi, La scelta offensiva di Cremona nel rifiutare una via a Oriana Fallaci, dal Corriere della Sera del 19 aprile. Sono dappertutto. Arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Letture di Radio 24. La morte ufficiale della macchina per scrivere ha una data. È il 25 aprile 2011, quando ha chiuso i battenti in India la Godry & Boyce, l'ultima azienda che le produceva. Ma anche se non vengono più prodotte, le vecchie macchine da scrivere continuano a essere utilizzate dai servizi segreti di molti paesi, dato che, a differenza dei computer, sono a prova di hacker. Intanto a Milano compie 10 anni il Museo della Macchina da Scrivere. Senza smartphone, senza PC o senza iPad non potremmo più vivere. Ma quello che ci fa battere il cuore è il contenuto con le sue connessioni, non il contenitore, non la macchina, scrive Saverio Paffumi in un articolo pubblicato su Abitare. Chiunque abbia vissuto di scrittura o l'abbia fortissimamente praticata prima dell'avvento dell'era digitale sa cosa vuol dire invece essere stati innamorati della propria macchina da scrivere, cui è dedicato a Milano un piccolo e curioso museo che ha appena compiuto 10 anni di vita. Forte, solida, mai obsoleta, perciò immutata per decenni, fedele compagna di tante avventure sintattiche a casa, in studio o portatile in giro per il mondo, più longeva della pur nobilissima penna, che si smarrisce o si logora facilmente, più affidabile, precisa e veloce di qualsiasi altro strumento inventato prima di lei per mettere le parole nero su bianco. Non è stato sempre così, perché perfino nelle mani dei loro stessi inventori, i primi prototipi erano molto lenti e piuttosto fragili. Tuttavia, la possibilità di scrivere perfettamente a casa o in ufficio, senza ricorrere a una tipografia, sedusse ben presto il mondo alle prese con la prima grande rivoluzione industriale. Prima ancora di conquistare gli scrittori e, mai del tutto, i poeti, il suo inconfondibile ticchettio diede vita a quella specie di foresta sonora che caratterizzava le mitiche redazioni dei giornali, i grandi uffici delle aziende e delle cancellerie, le vaste sale delle ragionerie e del pubblico impiego. A volte era accompagnato dallo sferragliare e dallo scampanellio di altri piccoli gioielli meccanici che si occupavano dei numeri, le calcolatrici, o da macchine che replicavano la battitura a distanza, le telescriventi, o ancora da macchine molto più grandi che i caratteri li mettevano in riga impilandoli in colonne di piombo. Le Linotype. A metà del Novecento non era possibile immaginare un luogo raggiunto da una qualche forma di civiltà moderna nei 5 continenti che non esibisse su qualche scrivania o tavolino una macchina da scrivere, fissa o portatile che fosse. Dai grattacieli di New York e Chicago alle capitali africane, dall'Europa alla Cina, dai paesi arabi ai palazzi indiani, tic, tic, tic. Senza rendercene conto, per molte generazioni abbiamo avuto questa colonna sonora futurista. Il tasto, la leva, il rullo che gira, lo spazio, la pagina di carta che vien via, l'altro foglio che vien messo dentro. E avanti così. Ora quella foresta di rumore non c'è più. Si è estinta e il silenzio si è fatto quasi totale, rotto soltanto dagli avvisi sonori lanciati a ogni messaggio dagli smartphone e dalle suonerie musicali che hanno sostituito gli squilli dei vecchi telefoni. Perfino l'impercettibile fruscio dei tasti dei PC si va zittendo per fare largo al felpato incedere delle parole digitate sul touchscreen. In questo mare improvviso di silenzio è sempre dolce il naufragare della scrittura. Ma se non vi fosse un museo della macchina da scrivere, a questo punto bisognerebbe inventarlo per spiegare a chi non c'era quanto grande sia stata la rivoluzione a vista d'occhio e ancor più a portata d'udito. In questi giorni di celebrazione dei 10 anni di vita, il museo ha mostrato i suoi pezzi migliori, che consentono un eccellente excursus dalle origini alle ultime macchine andate in pensione. Lo si deve alla tenacia di un collezionista appassionato, Umberto Di Donato, ragioniere, classe 1935, che da quando saper scrivere a macchina gli rese più lieve il servizio militare, giurò eterna riconoscenza al prezioso strumento. Nell'arco della sua vita si è fatto una posizione in banca, ha formato una famiglia, poi ha raggiunto gli anni della pensione, senza mai smettere di cercare e trovare modelli antichi e contemporanei, di ricevere donazioni, di approfondire le proprie conoscenze. La metodica precisione del ragioniere al servizio di un'ossessione degna di un artista. Più che un hobby, a poco, per Di Donato, è divenuta una missione. Comprati i locali, nel 2006 ha aperto il museo di Via Menabrea. 10 anni dopo, come tante volte capita in Italia, la prima domanda che ci si pone appena entrati è: ma è mai possibile che un tale patrimonio non abbia trovato una valorizzazione migliore, una sede istituzionale degna, spazi adeguati? E poi si è presi da un'ammirazione sincera per l'eroico volontariato di un 80enne che ha ancora tutte le energie che servono per custodire, catalogare, presenziare a mostre in giro per l'Italia, divulgare nelle scuole, ricevere gruppi e condurre piccole visite guidate. Il paradosso italiano, in tutta questa storia, è che non è bastato un secolo abbondante per trovare un sostantivo che traducesse typewriter, e chi usava macchina da scrivere, di gran lunga l'espressione più usata nel linguaggio parlato, trovava sempre qualcuno che correggeva con ineccepibile puntiglio per scrivere, non da scrivere. Ma tant'è, quel per è sempre sembrato forzato e un po' lezioso. Ora, anche l'Accademia della Crusca consiglia il da, pur non condannando il per. Insomma, buone notizie per il signor Umberto. Il suo museo non deve cambiare nome. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Saverio Paffumi, Macchina da scrivere, Mon Amour, pubblicato il 15 aprile nell'edizione online della rivista Abitare. Oggi il sesso è un enorme paradosso in numerosi paesi arabi, scrive Kamel Daoud in un articolo pubblicato sul New York Times, dove paragona le molestie subite dalle donne occidentali da parte degli immigrati a Colonia nella notte di Capodanno con le molestie che avevano subito le donne in piazza Tahrir durante la rivoluzione egiziana del 2011. Un ricordo che ha spinto l'Occidente a capire che una delle miserie di una buona parte del mondo arabo e del mondo musulmano in generale, scrive Daoud, è il suo rapporto morboso con la donna. In certi luoghi viene coperta con il velo, lapidata, uccisa. Come minimo, le si rimprovera di seminare il disordine nella società ideale. In risposta, alcuni paesi europei sono giunti a produrre delle guide di buona condotta per rifugiati e migranti. Il sesso è un tabù complesso. In paesi come l'Algeria, la Tunisia, la Siria e lo Yemen, è il prodotto della cultura patriarcale del conservatorismo circostante, dei nuovi codici rigoristi degli islamisti e del puritanesimo sottotraccia dei diversi socialismi della regione. Una buona miscela per bloccare il desiderio, colpevolizzarlo e spingerlo ai margini della clandestinità. Si è molto lontani dalla deliziosa licenza degli scritti dell'età dell'oro musulmano come Il giardino profumato di Sheikh Nefzawi, che trattavano senza complessi l'erotismo e il Kama Sutra. Oggi il sesso è un enorme paradosso in numerosi paesi arabi. Si fa finta che non esista, ma condiziona tutto il non detto. Negato pesa con il suo occultamento. La donna ha un bell'essere velata. Essa è al centro di tutti i nostri legami, i nostri scambi, le nostre preoccupazioni. La donna ritorna nei discorsi quotidiani come posta in gioco della virilità, dell'onore e dei valori familiari. In alcuni paesi essa non ha accesso allo spazio pubblico se non quando abdica al proprio corpo. Toglierle il velo sarà svelare la voglia che l'islamista, il conservatore e il giovane disoccupato sente e vuole negare. Percepita come fonte di squilibrio, essa non è rispettata se non quando definita in un rapporto di proprietà come sposa di X o figlia di Y. Queste contraddizioni creano tensioni insopportabili. Il desiderio non ha vie di uscita. La coppia non è più uno spazio di intimità, ma la preoccupazione di un gruppo. Ne viene fuori una miseria sessuale che conduce all'assurdo e all'isterico. Se allorquando si consente di vivere una storia d'amore, nei fatti si impedisce la meccanica dell'incontro, della seduzione, del flirt sorvegliando le donne, esaltando la questione della loro verginità e assegnando dei poteri alla polizia dei costumi. Si finisce per pagare dei chirurghi per ripristinare gli imeni lacerati. In alcune terre di Allah, la guerra alla donna e alla coppia prende chine da inquisizione. D'estate in Algeria, pattuglie di salafiti e di giovinastri di borgate, arruolati grazie ai discorsi di imam radicali e di telepredicatori islamisti, sorvegliano i corpi, soprattutto quelli delle bagnanti in costume. Negli spazi pubblici, la polizia molesta le coppie, anche quelle sposate. I giardini sono proibiti alle passeggiate amorose. Le panchine sono tagliate in due al fine di impedire che ci si possa sedere vicini, fianco a fianco. Risultato: si fantastica sull'altrove, sia sull'impudicizia e la lussuria dell'Occidente, sia sui paradisi musulmani con le sue vergini. Questo sbocco è d'altra parte perfettamente incarnato nell'offerta dei media del mondo musulmano. In televisione, mentre i teologi vi furoreggiano, i cantanti e i ballerini libanesi della Silicon Valley racchiudono il sogno di un corpo inaccessibile e di un sesso impossibile. Sul piano dei vestiti, ecco sboccare in altri estremi. Da un lato il burqa, il velo integrale ortodosso. Dall'altro il velo mutabaraj, il velo che svela. Oppure combinare un velo sulla testa con un jeans o un paio di pantaloni aderenti. Sulle spiagge il burkini s'oppone al bikini. I sessuologi sono rari in terra musulmana e i loro consigli poco ascoltati. Stando così le cose, sono gli islamisti che di fatto hanno il monopolio del discorso sul corpo, il sesso e l'amore. Con internet e le teo-televisioni, questi gruppi hanno preso forme mostruose, un'aria di porno-islamismo. Alcuni religiosi lanciano delle fatwa grottesche. È proibito fare all'amore nudi. Le donne non hanno il diritto di toccare il membro. Un uomo non può restare solo con una collega donna, tranne che sia sua madre adottiva o l'abbia allattato. Il sesso è dappertutto, e soprattutto dopo la morte. L'orgasmo è accettato solo dopo il matrimonio, ma sottomesso a codici religiosi che lo svuotano di desiderio, o dopo la morte. Il paradiso e le sue vergini è un tema feticcio dei predicatori, che presentano queste delizie d'oltretomba come una ricompensa agli abitanti delle terre della miseria sessuale. Il kamikaze lo sogna e si sottomette a un ragionamento terribile e surreale. L'orgasmo passa attraverso la morte, non l'amore. L'Occidente si è cullato a lungo in un esotismo che giustifica le differenze. L'orientalismo rende normali le differenze culturali e ne discolpa le derive estreme. Sherazad, l'harem e la danza del ventre hanno dispensato alcuni a interrogarsi sul diritto delle donne musulmane. Ma oggi, con gli ultimi flussi di immigrati dal Medio Oriente e dall'Africa, il rapporto patologico che alcuni paesi del mondo arabo intrattengono con la donna fa irruzione in Europa. Ciò che era stato lo spettacolo spaesante di terre lontane prende la configurazione di un confronto culturale sul suolo stesso dell'Occidente. Una differenza una volta sfocata dalla distanza e un'area di superiorità è diventata una minaccia immediata. Il grande pubblico in Occidente scopre, tra paura e agitazione, che nel mondo musulmano il sesso è malato e che questa malattia è in procinto di raggiungere le proprie terre. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Kamel Daoud, La miseria sessuale del mondo arabo, apparso il 21 febbraio nell'edizione in francese del New York Times e pubblicato il 17 aprile nella traduzione italiana sulla rivista online Gli Stati Generali.